Dumaga, fiuque gan forgese, forgese nac cuico, doli, gan, doli, giunto, ac giunta. Gan ac giumto ac giumpta sage soli solui ac fu cui at dui. Dui cui semta forge zang.